piango da oltre le mura di una grande città. Ho lasciato di qualche mio appunto, ho lasciato la mia ingenuità. I ruscelli di fresca primavera li avvelenano in tenera età. Alla notte hanno rubato il silenzio, al giorno la verginità. Oramai la si muore tra il gas e il metano, e chi vive rimane a metà. Oramai la si muore tra il gas e il metano, e chi vive muore a metà. Circuiti corti nel credere, cercano legna da ardere tra i boschi ricolmi di aromi, violentano i testimoni. Tempeste di clacson ti fanno la festa, e l'ombra del killer si manifesta. È un cerchio d'acciaio, il suo teschio dorato colpisce alle spalle ed è sempre assetato. Oramai la si muore tra il gas e il metano, e chi vive rimane a metà. Oramai la si muore tra il gas e il metano, e chi vive muore a metà. Ora vado dove il sole si eclissa coi mari, dove il cielo somiglia a un poema senza muri, dove il canto della valle in una torre ha ritrovato le armonie di un coraggio rinnovato, dove chi è perduto acquista la sua prima libertà, dove il tempo non ha scritto ancora la sua storia, dove il prezzo di un frutto è la volontà di averlo a chi ha perso una vita per cercarlo. Oramai la si muore tra il gas e il metano, e chi vive rimane a metà. Oramai la si muore tra il gas e il metano, e chi vive muore a metà. Oramai la si muore tra il gas e il metano, e chi vive rimane a metà. Oramai la si muore tra il gas e il metano, e chi vive muore a metà.